Benvenuti a Dedicato, questa settimana in studio grandi simpatie, qua c'è la mascotte che grida allo schifo, non ho capito per cosa, ma forse l'ho capito ma non lo voglio sapere, ognuno fa le sue, c'è chi suona, c'è chi dice, insomma ragazzi qua grande fermento, non lo so, sarà che la primavera inizia a essere vagamente alle porte, quindi qui lo studio è impazzito. Non lo so, oggi succedono cose e quindi niente, noi intanto, così, per non farci mancare niente, cominciamo con un brano musicale di quelli belli, beh, sul serio belli, poi vediamo come andrà avanti questa puntata, perché non lo so neanch'io in realtà, quindi improvvisiamo? Boh, tanto ascoltiamo musica. Perceive the lies bouncing off every fucking wall. Closure is well kept. I guess he fears playing the fool. The place that students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe ain't my rope to swing on. Can't learn a thing from it. Then we hang from it. Gotta get it, gotta get it. Put the

Clash, grande mascotte che li hai anche introdotti molto bene. La mascotte è in formissima oggi, eh. Qua che sta continuando a canticchiare una canzone che, vabbè, io non commento perché non è proprio la mia preferita, però è lì che la canticchia, vabbè, ci toccherà ascoltarla, secondo me. Comunque, torniamo a cose serie nel nostro studio, che oggi di serio c'è ben poco, ma invece vi stupirò perché è andato avanti ovviamente il laboratorio Voice on Air, che per chi non lo sapesse, non ci avesse sentito precedentemente, è il laboratorio per speaker radiofonici tenuto a Radio Città Fucico. Ogni anno ci sono due corsi, il corso base e il corso avanzato. I ragazzi che stiamo per ascoltare sono del corso avanzato, sono bravissimi, sono Kempa e Stefano, che avevano come compito di registrare degli spot un po' autoreferenziali, cioè dove mercificavano loro stessi. Hanno tirato fuori delle cose simpatiche, già qualcosa avevamo ascoltato, ma visto che gli spot che hanno registrato erano ben più di uno, oggi ve ne mandiamo un paio e andiamoli proprio ad ascoltare insieme, perché sono interessanti questi fanciulli, interessanti, interessanti. Voice on Air è il corso che secondo me tira fuori il meglio di voi e poi vi fa diventare anche speaker radiofonici. Questo lasciamo stare, dai, non c'è. Tira fuori il meglio di voi. Grande, ragazzi! Ami il senso di colpa verso l'ambiente e i momenti di ecoansia? Ci possono essere giorni in cui questi calano significativamente, dandoti un certo senso di fastidio. KempUp è la nuova app che fa il caso tuo. Registrati e potrai avere un colloquio personalizzato. KempUp farà ritornare i tuoi sensi di colpa e l'ecoansia a livelli normali. Chiama allo 166 10 10 10 o cerca la KempUp su Google Play Store. Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Ho mandato un messaggio a quel catto comunista del Manfro per una birretta qui in Bolognina e indovina? Mi ha scritto la mia amica Lucia di Pisa dicendomi che l'ha appena vista al Caracol al concerto dei Vanari. Non è possibile, mai a casa lui, inspiegabile. Pensa che domani Marco ha detto che sarà allo stadio con lui a vedere Alessandria Casale Monferrato. Ma si sa, lui vive di disagio e caffettoni e treni regionali. Vorrei proprio vederlo in classe lunedì mattina. Manfredi Stefano, rompi i coglioni del 1988. Rage Against the Machine. Cioè, il gruppo, la canzone è Bulls on Parade. Grazie. D'altronde studiano, che gli dobbiamo dire? Studiano, gli vogliamo bene per questo, perché dai, è una cosa meravigliosa quando i ragazzi si dedicano alla musica, quando fanno cose belle per loro, no? Che gli devi dire? Niente, noi gli diamo spazio, figurati, anche troppo, no? Mi sembra. Vabbè, comunque abbiamo chiuso la porta in tempo. Adesso il problema, quello reale, è la mascotte. Perché la mascotte sta cantando questa canzone da ore. Se mai visto piangere. Scusa, allora, intanto cominciamo malissimo, perché dovrei vederti piangere? Poi. Sappi che era No, un'illusione poi. ottica. Ma che illusione ottica? Io volevo fare un brano della Bertè, non ho Stavo capito. solo togliendo il mare dai miei occhi. Che aspetta un attimo, scusa, perché tu avevi il mare negli occhi, non ho Perché ogni capito. tanto per andare avanti sai, bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi. Brava, è quello che dico sempre anch'io, perché i vecchi ricordi poi dopo ti tengono attaccati al Mi chiedi passato. come sto e non te lo dirò, No, ma io il non te l'ho nostro vecchio chiesto. gioco era di non parlare mai, E come infatti. due serie Allora, killer, stai buona e non parlare. interrogate Ma che l'FBI. FBI in I Italia? tuoi segreti poi a chi racconterai? Tu che Ma rimani saranno sempre la mia fatti miei. password del Scusa un wifi. attimo, tu hai la tua password del wifi, i miei segreti a chi li racconto E saranno poi chissà fatti se lo miei. Ma sai. che lo so, ma lo Per so sì. favore non Ma non piangere e piango. non ci rimanere Ma lo sto mai. benissimo io. Che noi due ci conosciamo bene dalla prima Ma elementare.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ho 38 anni in più di te, cosa dici? E scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario. E le pagine erano nere, perché se scrivi col pastello bianco, sennò non si legge, non so come dire. Speravo che venissi a colorarmi. O bordeaux, marroni. E ti giuro, sto ancora aspettando. Scuro. Blu. Oh, oh, oh. Ma oh, oh, cosa? Ma cosa sta dicendo? Ma scopri, scusi. E se mi hai visto ridere. Oh, ha. E finalmente. Sappi che era neve nel deserto, ma. Ah, no, niente, quindi non si ride. Ormai di questi tempi non mi stupisce niente. Ok. Mi chiedo come stai e non me lo dirai. Io con la Coca-Cola, tu con la tisana tai. Allora, io te lo dico se mi va come sto, però non è, cioè, non è che perché se... un addio suona troppo. E poi serio. Chi è che beve la Coca-Cola e chi la tisana e tai? E allora ti dirò bye bye. Bye bye. Bye bye. Seduti dentro un bar, poi si litigherà per ogni cosa, pure per il conto da pagare. Ma no, dai, non litighiamo. Lo sai, mi mancherà. Na na na na. Per favore non piangere. Ma non piango. E non ci rimanere mai. Ma nemmeno. Che noi due ci conosciamo bene. È vero, ci conosciamo bene. Dalla prima elementare. No, dalla prima elementare no, se permetti. E scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco su diario. Ancora sto pastello bianco, ma non scusa. Speravo che venissi a colorare. E ti giuro, sto ancora aspettando. Ma se c'è il pastello bianco, oh, oh, oh, devi scrivere su dei colori scuri. Tu mi hai insegnato io... la differenza tra le ciliegie e le amarene. Ah, non la sapevi? E io non la dimenticherò più. Che bella nota che hai preso. E ti auguro il meglio dei cieli stellati, le notti migliori, le docce di altri. Grazie. Dove tu forse non stonerai più. Ma io non stono, ma scusi, ma Scott. Per favore non piangere. Ma no, non piango, stai tranquilla, te l'ho già detto che non piango. Che noi due ci conosciamo bene, dalla prima elementare. Ma di cosa ti sei convinta, sta prima elementare? E scrivevo tutti i miei segreti. Col pastello bianco sul diario, immaginavo. Speravo che venissi a colorarli. Ma come faccio a colorarli? E ti giuro, sto ancora aspettando. Ma cosa aspetti? Oh, yeah! Ma io cosa? Mascotte, non posso colorare? Vabbè. Well, I didn't get a message going to my head. I Red Hot Chili Pepper, yeah, grande. Allora, oh, grandi pezzi oggi, devo dire che, cioè, non abbiamo sbagliato uno e me lo dico da sola perché modestamente li ho scelti io. Comunque, questa volta, a parte la mascotte che ci ha cantato Pastello Bianco, per il resto direi che siamo su un gran genere musicale. Sì, siamo molto convinti di questa cosa, anche i ragazzi ne sono contenti, anche loro stavano studiando i Rage Against the Machine, quindi voglio dire, tanta roba. Insomma, abbiamo un'ultima incursione che vabbè, glielo devo far dire, perché la deve dire questa barzelletta, se no non ce la possiamo fare. Abbiamo uno dei nostri mini dello staff di dedicato che passava giusto di qua, chissà che caso. No, perché di qua non ci passa mai nessuno, e voi dovreste vedere quello che succede nelle nostre vite dello staff di dedicato, cioè. Nel senso, lo staff prende vita nella nostra vita. Insomma, stiamo un po' confusi oggi? Forse mi stanno confondendo. Te lo faccio dire, sì, dillo. Un daino dice un altro daino. Giochiamo a nascondaino? Dai, no. Vabbè, grazie dopo questa meravigliosa If tu barzelletta. sei a tua Ah, mai, sei tornata a Sugar I'll Station? be tearing down Sì, vabbè, moonshine. l'inglese poi lo impariamo, eh. Scumana da pugana. Ok, mascotte, preferisco questa a Pastello Bianco. Grazie davvero. Il tuo contributo in questa puntata è stato fondamentale. Se non ci fossi Infatti, stata tu, noi non avremmo fatto la puntata. Adesso abbiamo chiuso. sono un pezzo fondamentale di tutta dedicato, senza di me non si farebbe E questo niente. è vero, e questo è assolutamente vero, mascotte. Mi ricordo ancora la prima stagione con i tuoi tutorial, quando eri una piccola nanerottola. Adesso non ce li fa più. Torneremo con la prossima stagione di dedicato con i tutorial, ragazzi. Sì, Tenetevi pronti! infatti immagino, me lo immagino. State Mascotte, allerta! salutiamo o niente, dobbiamo star qui Good ancora? day! Va bene, saluta tutto lo staff di dedicato, ci sono quelli che suonano, quelli che saltano, quelli che Ciao! Quelli raccontano che raccontano barzellette. barzellette di nascondaino! Ciao a tutti! Ciao, ci risentiamo la settimana prossima alle 13 su Radio Città Fujiko con... Dedicato! Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più.